Bravo! Corso di lingua italiana e civiltà. Livello elementare e avanzato. Di Caterin Caterinov e Maria Clotilde Boriosi Caterinov. Edizioni scolastiche Bruno Mondadori. Prima unità. Italiani e no. Dialogo. A una festa di giovani. Chi è quella ragazza lì? È Betty, un'americana. È per caso la ragazza di Giorgio? No, è l'amica di Fred, anche lui americano. E le altre ragazze di dove sono? Carmen è spagnola, è di Madrid. Marta e Greta sono tedeschi. Brigitte invece è francese. E i ragazzi sono anche loro stranieri? Sì, Paul è inglese, Peter è tedesco e Dimitri è greco. Insomma, solo tu e Giorgio siete italiani. Già, siamo italiani solo noi due. Ma lei chi è, scusi? Sono il padre di Giorgio. Piacere. Proviamoci insieme. Esercizio 3. Ascoltate e ripetete. Chi è quella ragazza lì? È Betty, un'americana. È per caso la ragazza di Giorgio? No, è l'amica di Fred, anche lui americano. E le altre ragazze di dove sono? Carmen è spagnola, è di Madrid. Marta e Greta sono tedesche. Brigitte, invece, è francese. E i ragazzi sono anche loro stranieri? Sì, Paul è inglese, Peter è tedesco e Dimitri è greco. Insomma, solo tu e Giorgio siete italiani. Già, siamo italiani solo noi due. Ma lei chi è, scusi? Sono il padre di Giorgio. Piacere. Prima unità. Ascolta e rispondi. Esercizio 16. Incontri. Scusa, sei anche tu straniero? Sì, sono tedesco. E lei chi è? È Jacqueline, una ragazza francese. Io e la mia amica siamo inglesi. Anche la mia ragazza è inglese. Ah sì? E di dove? Di Londra. Esercizio 17. In un negozio di dischi. Scusi, vorrei l'ultimo LP di... Di? Oddio, non ricordo il nome adesso. È una cantante. Una donna. Ma è italiana o straniera? È americana, credo. È alta, molto bella. Bionda o bruna? Bruna. Anzi, è una cantante di colore. È questa? Sì, è proprio lei. A scuola. Chi è il tuo attore favorito? Indovina. Tom Cruise. No. Ma è italiano? No, è straniero. È di New York. È alto e biondo? No. È basso, bruno, non giovane, magro. È Peter Falk? No, non è lui. Esercizio 18. È per caso la ragazza di Giorgio? Insomma, solo tu e Giorgio siete italiani. Marta è svizzera. Le altre ragazze, di dove sono? Quella ragazza è Betty, un'americana. Facciamo il punto. Comprensione orale, pagina 51. In questa classe i ragazzi sono solo stranieri? No, due sono italiani, Franco e Roberto. E gli altri di dove sono? Di diversi paesi. Per esempio? Eleni è greca, di Salonicco. Mark è di Dublino, ma non è irlandese, è inglese, come Margie. Come chi, scusa? Come Margie, quella ragazza bionda. E l'altra ragazza bionda chi è? È Britt, una svedese. È svedese anche il ragazzo che è con lei? Quale ragazzo? Ah, sì, quello un po' grasso. No, quello è Thomas, uno svizzero.